Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, naturalmente da Bologna, sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché sul web tramite l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. Come sentite, la mia voce non è al meglio, anzi direi che è proprio deficitaria quest'oggi, per cui vediamo di fare poche chiacchiere e molta musica, anche perché Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che sta iniziando, è una trasmissione musicale che si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. E anche oggi, come sempre oserei dire, Città Fujiko Live Club inizia con una novità, ed è una novità interamente acustica, un album interamente acustico ad opera di uno dei migliori chitarristi in assoluto della scena musicale rock, soprattutto progressive, di tutti i tempi. Lui si chiama Stevie Hackett, viene da Londra e dopo alcune band giovanili, scolastiche, studentesche, è entrato nei Genesis nel 1971, è stato il secondo chitarrista dei Genesis, non ha formato la band ma è entrato dopo. Il primo chitarrista, per la cronaca e per far vedere che ne so pacchi, si chiama tuttora Anthony Phillips. E durante il periodo dei Genesis Stevie Hackett pubblicò il suo primo album live nell'ottobre del 1975, si chiamava Voyage of the Acolyte, e più o meno, e poi da lì sono seguiti molti album nel corso della sua carriera solista, che è iniziata nel 1977 dopo che lasciò i Genesis, secondo a fuggire dalla Phil Collins Band dopo Peter Gabriel. Comunque ha fatto parecchi album dal vivo. Lui ha avuto a un certo punto della propria carriera, una carriera che stava languendo, come si suol dire, lui o chi per lui hanno avuto la brillante idea di riproporre nel corso dei concerti molti pezzi dei Genesis, addirittura album interi. La prima parte del concerto era formata da brani di Stevie Hackett solista e la seconda parte invece praticamente tutti i brani dei Genesis, e questo sistema ha avuto un successo veramente strepitoso, e infatti sono usciti moltissimi album live di questo genere, solitamente doppi: il primo dischetto pezzi di Stevie Hackett, il secondo dischetto pezzi dei Genesis. Già da diversi anni il buon Stevie, in occasione delle feste natalizie, organizza un concerto acustico in un locale che si chiama Trading Boundaries, che è vicino a Fletchings, una cosa del genere, nel Sussex in Gran Bretagna. Sono 10-11 anni, se ricordo bene, e solitamente sono due concerti, entrambi acustici, con Steve Hackett in compagnia di amici chitarristi e del fratello John, che suona il flauto. È uscito un album, appunto, che è quello che vi propongo oggi, che si chiama Live Magic at Trading Boundaries, che racchiude il concerto, che non si sa quando sia stato registrato. Infatti questo è uno dei problemi, secondo me, di questo album: non ci sono né date di registrazione né altre indicazioni che possono servire allo scopo. Ho fatto delle ricerche, come sempre, ma non sono riuscito a trovare nessuna data. Diciamo che sembrerebbe abbastanza recente, ma prendetelo con beneficio di inventario. Ho già trasgredito alle mie intenzioni, ho già parlato anche troppo, per cui andiamo ad ascoltarcelo. Questa Stevie Hackett versione acustica, il brano che ho scelto per voi si chiama Eyeless Heart, Stevie Hackett. Thank you. È tutto di questo tenore così intimista, così tranquillo, così pacato, così invernale, non a caso è registrato durante le festività natalizie. Questo era Stevie Hackett, il suo nuovo album live, si chiama Live Magic at Athletic Boundaries, che racchiude appunto questa performance di non si sa quando, che però si perpetua nel corso degli anni, e speriamo che prima o poi si venga a sapere questa a che anno appartiene. Hardest Heart, il brano che ci siamo ascoltati. Il mondo musicale è sempre vissuto di duelli, chiamiamo così, anche se in quei tempi che corrono non è proprio il termine esatto, diciamo di rivalità, amichevoli più o meno, anzi quasi sempre molto amichevoli. Alcuni di voi naturalmente ricorderanno, tanto per dire, i Beatles e Rolling Stones, oppure più recentemente gli Oasis e Blur. In Italia c'erano i Rocks, l'Equipe 84 tanti anni fa, oppure la PFM e il Banco, sempre rivalità musicali naturalmente. E la rivalità musicale in campo progressive era fra Genesis e Yes. C'erano tantissimi altri gruppi progressive, ma i principali, almeno a mio avviso, erano questi due, insieme ai King Crimson naturalmente, che però non rientravano in questa dualità. E dopo Stevie Hackett quindi arriva Stevie Howe, che è tuttora il chitarrista degli Yes. Lui iniziò negli anni 60 con una band che si chiamava Tomorrow, e dopo aver fallito un'audizione con i Jethro Tull, per fortuna, nel giugno del 1970 entrò negli Yes. Anche lui era il secondo chitarrista della band, il primo era Peter Banks, che se n'era andato qualche mese prima. Nel frattempo, in questo lunghissimo lasso di tempo in cui è stato negli Yes, ha fatto parecchi album da solo, ha formato gli Asia, ha formato i JTR, una band sconosciuta ai più, ma guarda caso insieme a Stevie Hackett. GTR è l'acronimo di guitar, e appunto c'erano questi due sublimi chitarristi. È durato solamente un album e poi è morta lì. E poi ultimamente con Stevie Howe Trio, che vede alla batteria suo figlio, che si chiama Dylan. Quasi tutti gli album di Stevie Howe solo sono da solo, proprio solista. E questo non fa eccezione, si chiama Pulling Strings, è stato registrato al Park West di Chicago il 27 ottobre del 1994. Il brano che vi faccio ascoltare è un medley fra il tema di Gates of Delirium, uno degli ultimi grandi album degli Yes, e il finale di quell'album che si chiama Soon. Ce ne andiamo ad ascoltare Stevie Howe, il tutto da Chicago. Thank you. lights with an end to this endless night. And wait here for you, our reason to be here. Thank you. hurt me, you bring me down. You betray your thoughts. Ho dimenticato di dire che, prendendo spunto da Stevie Hackett, che a un certo punto uscì nel 1977 dai Genesis, lo spunto per questa prima parte della trasmissione è quella di chitarristi che sono usciti temporaneamente o stabilmente dalla loro band, diciamo, originale. Stevie Howe naturalmente ce lo siamo ascoltati prima, e questo invece era Steve Wilson, che è uno dei leader del movimento progressive attuale. Lui viene da Hemel Hempstead, che è situato naturalmente in Gran Bretagna, e ha fondato il Porcupine Tree nel 1987, e in tutti questi anni ha suonato con diverse altre bands e ha una carriera solista propria che l'ha portata in Italia anche diverse volte. Fra l'altro il suo nuovo album, che si chiama The Overview, è uscito proprio in questi ultimissimi giorni. Oltre all'attività musicale vera e propria, diciamo, è anche molto rinomato e molto ricercato come remixatore, non so se si dica così. Ha remixato un sacco di album, soprattutto Progressive, Yes, King Crimson e tanti altri, ed è veramente uno dei suoi cavalli di battaglia, questo del remix. E il brano che ci siamo ascoltati viene da quello che è considerato un extended play, si chiama Drive Home, che comprende anche un DVD, è un extended play che però è praticamente di 50 minuti, quindi alla faccia. Le tracce dal vivo sono state registrate in diverse occasioni, in diverse epoche. Questo, come avete sentito dal ringraziamento in tedesco, è stato registrato a Francoforte, appunto in Germania, il 23 marzo del 2013, e si chiama Anson Jenkins. Il piccolo appunto per quel che riguardava Stevie Howe e gli Yes, naturalmente, e di conseguenza John Anderson, che degli Yes è stato il cantante per tantissimo tempo, è uscito in questi ultimi giorni un album live di John Anderson con la sua nuova band, e naturalmente ve lo farò ascoltare nelle prossime trasmissioni. E niente, quello che ci siamo ascoltati, l'ultimo, era Stevie Wilson. Mr. Paul Weller, chitarrista che è uscito, ha formato e poi è uscito da ben due band, due grandi band, prima i Jam e poi gli Style Council, da questo personaggio che è un mito in Gran Bretagna, è considerato il grande padrino del movimento mod. E lui viene da Woking, che è una cittadina a 50 km a sud di Londra, e ha cominciato la carriera solista qualche tempo dopo lo scioglimento degli Style Council. La carriera solista è iniziata nel 1992 e, come dicevo, è rispettatissimo sia dai musicisti che dai critici, forse anche troppo direi. però è sicuramente un grandissimo personaggio. Questo album che ci siamo ascoltati è il suo 8º album, è stato pubblicato nel 2005, si chiama As Is Now, e proprio in quell'anno questo album ricevette una nomination per il Brit Awards, uno dei massimi riconoscimenti britannici, per cui la casa discografica pubblicò una edizione speciale doppia che con il secondo CD che era completamente dal vivo, anche se abbastanza corto, registrato all'Alexander Palace di Londra naturalmente il 5 dicembre del 2005. Il brano è un classico dell'ultima parte della carriera dei Jam, si chiama Town Called Malice. Ma attraversiamo l'America, attraversiamo l'Atlantico per meglio dire, e andiamo in America, anche se coi tempi che corrono non è proprio un sogno, ma rimaniamo nel campo musicale insieme a un chitarrista che viene da Boston e che è stato per anni leader di una band molto famosa che si chiamava, anzi si chiama tuttora, perché anche in questo caso c'è stata una riunione qualche tempo fa che dura tuttora. Loro si chiamano Lemonheads. Onestamente c'è da dire che molto del successo della band era dovuto all'avvenenza fisica di Ivan Dando, il pubblico era prettamente femminile, e, però erano validissime anche dal punto di vista musicale. Ivan Dando, dopo lo scioglimento, il parziale scioglimento della band, ha vissuto in Australia e dal 2023 invece vive in Brasile. Ha fatto un album che uscì solamente in Australia durante il periodo in cui viveva da quelle parti, che si chiama Live at the Brattle Theatre, che è un teatro che è a Cambridge in Massachusetts. L'album è stato registrato il 18 ottobre del 2000 e il pezzo che ho scelto per voi si chiama Stove, lui si chiama Ivan Dando. Thank you. where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? We get in the water, see it swim. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where it goes when the water sees it swimming. Lui si chiama Charles Michael Kittredge Thompson IV, ma quando suona, canta e guida i Pixies si fa chiamare Black Francis, ma quando è in versione solista si fa chiamare Frank Black. È un tipo un po' pazzoide, oserei dire, ma è un grandissimo personaggio. Questo brano che si chiama Where Is My Mind, secondo me è assolutamente splendido. Lui è stato, è tuttora il leader dei Pixies, anche loro sono formati nel 1986, poi sono sciolti, poi si sono riformati, poi sono risciolti e tuttora però sono in giro a suonare sempre alla grandissima. Durante la sua carriera solista Frank Black è stato accompagnato da diverse formazioni, in questo caso abbiamo i Catholics. La registrazione è stata effettuata ad Amsterdam, infatti l'album si chiama Live at Benqueg, che è un locale molto interessante nella città olandese. E il pezzo è stato registrato il 24 marzo del 2001 e, lo ripeto, si chiama Where Is My Mind. Come quasi tutti quelli che ci siamo ascoltati finora, c'è un'alternanza fra periodo solista e periodo con una band, e anche Tom Verlaine, al secolo Thomas Joseph Miller, from Danville, New Jersey, non è esente da questa questa storia. E infatti lui è insieme ai Television, è stato, per meglio dire, insieme ai Television dal 1973 al 2023, con un sacco di interruzioni. Il 2023 fra l'altro è stato l'anno della sua morte ed è stato veramente una grave perdita per la musica rock Television in questi anni hanno fatto tantissimi breaks appunto per dare la possibilità a Tom Verlaine di fare una propria carriera solista, che però non gli ha portato molto fortuna. Incidentalmente nel frattempo ha suonato anche nel Patti Smith Group, lui e Patti Smith erano molto amici. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Miller's Tale, come appunto il suo nome, è un'antologia, il primo dischetto però è una cosa che non è mai stata pubblicata, è stata registrata al Vigneau di Londra il 3 giugno del 1982, un classico proveniente dal songbook dei Television che è del 1977, il brano si chiama, scusate, Prove It, lui è Tom Verlaine. Clouds, the whisper woke him up. mask is closed. A concludere questa piccola rassegna di chitarristi fuoriusciti temporaneamente o stabilmente da una band è arrivato naturalmente Mr. David Byrne, che è, pur essendo considerato dai più statunitense, è in realtà scozzese. La sua famiglia poi è andata negli Stati Uniti quando lui, anzi prima in Canada quando lui aveva 2 anni, e poi ha girovagato per gli Stati Uniti perché il padre faceva l'ingegnere, non mi ricordo di che tipo, e naturalmente si vendeva il miglior offerente attraverso gli Stati Uniti. E lui chiaramente è stato il leader dei Talking Heads dal 1975 al 1991, e merito suo, non ha più voluto saperne di una riunione della band. Ha lavorato sia con Brian Eno che con Sam Vincent, che è con un ottimo album, fra l'altro ce n'è anche uno dal vivo, e ha fatto anche diverse soundtrack, diciamo così, diverse partiture per delle piste teatrali di solitamente di avanguardia. Il brano che ci siamo ascoltati, naturalmente Like Humans Do, è stato registrato a Austin, Texas. Infatti l'album si chiama Live from Austin, Texas, che è una serie che è registrata solitamente durante uno show televisivo che si chiama Austin City Limits. In questo caso era il 28 di novembre del 2001. Mr. David Byrne a concludere questa piccola rassegna della prima parte, ma ci sarebbero tantissimi altri chitarristi da ascoltare, magari un'altra volta. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte di questa trasmissione 26 marzo 2025, oramai stiamo archiviando anche questo mese, e seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Steve Hackett, eccelso chitarrista, prima coi Genesis e poi in versione solista, con questo nuovo album che un album completamente acustico che si chiama Live Magic at Tragic Boundaries. È stato registrato vicino, è specificato, vicino a un paese che si chiama Fletching nel Sussex in Gran Bretagna. È una tradizione oramai decennale, diciamo, pare che siano 11 anni che lo fa. E nel corso del periodo natalizio il buon Stevie Hackett insieme ad alcuni amici fa questo concerto acustico, naturalmente per raccogliere fondi per non ricordo quale organizzazione benefica. In questa occasione è stato pubblicato questo concerto, ma non si sa quando sia stato registrato. Comunque è sicuramente una molto interessante cosa, come direbbero i tedeschi. Ma il brano che ci siamo ascoltati si chiama Walking Away from Rainbows. È un, come dicevo in precedenza, un album molto intimista, molto tranquillo, molto calmo, proprio adattissimo al clima invernale. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. E lo so che sono tedioso, ma ancora una volta tantissime cose, tantissime registrazioni effettuate in questa giornata. Il criterio di scelta però rimane sempre quello, un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1972 con quella che fu una grande band, anche se loro sono stati riuniti, diciamo così, dal 1969 al 1980, poi si sono ritrovati diverse altre volte per concerti sporadici. Hanno avuto un grandissimo successo mondiale con un brano che gli che David Bowie regalò loro, il brano si chiama All the Young Dudes, però già in precedenza hanno fatto un ottimo album, cercatelo perché è molto bello, si chiama Brian Capers. Il frontman, che si chiama Ian Hunter, poteva stare benissimo nella prima parte perché è un chitarrista, suona anche il piano e canta naturalmente. Abbandonò la band nel 74, band che continuò come Mott in precedenza e poi si trasformarono in British Lion. Ma a noi interessa Mott e Opel. Dopo il loro scioglimento si sono verificate delle pubblicazioni al limite della legalità, diciamo così. Una delle etichette specializzate in questo limite si chiama Angel Air, però effettivamente poi l'album è stato approvato dai Mott e Opel o dal loro entourage. Il tutto si chiama Rock and Roll Circus. Questo album è stato registrato principalmente a Wolverhampton, una cittadina britannica, a parte il secondo pezzo che è stato registrato alla Folk House di Zurigo in Svizzera il 26 marzo del 1972. Il titolo ce lo dice lo stesso Ian Hunter, 26 marzo, come vi dicevo, 1972. There's more than a hint of tragic comedy about this evening, I think. We'd like to do a number called The Ballad of Mott the childlike dream. Then he glanced at his guitar. Come avete sentito, la registrazione non è sicuramente di quelle a livello esoterico, ma come si suol dire, è il valore storico di questa performance che conta. Se appunto a causa della cattiva qualità della registrazione non avete capito il titolo, ve lo dico io: si chiama The Ballad of Monte Hubel, guarda caso la ballata della band in ogni caso. E il tutto è stato registrato al Folk House di Zurigo in Svizzera il 26 marzo del 1972. Passiamo agli anni 80, anzi sul finire degli anni 80, siamo al 1989 e come al solito cambiamo radicalmente genere musicale, radicalmente approccio. È passata non un'era geologica musicalmente parlando, ma almeno tre, per me forse anche quattro. La band che ci andiamo ad ascoltare si chiamava Sonic Youth. Sono stati insieme dal 1981 al 2011 e sono stati una grande band di New York, una delle leader, una band leader della scena musicale alternativa di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Hanno fatto diversi album live, soprattutto postumi, dopo lo scioglimento, che potete trovare sul loro sito, molti anche in download only, cioè solamente con la possibilità di scaricarle dal loro sito o da Bandcamp, credo, un'altra cosa di cui un giorno parleremo. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Daydream Nation, è il loro quinto album di studio, è stato pubblicato nell'ottobre del 1988, ma è stato ripubblicato nel 2007 in versione doppio CD, e naturalmente il secondo CD ha diversi pezzi dal vivo che sono stati registrati al Paradiso di Amsterdam in Olanda, chiaramente, e il 26 marzo del 1989. Il pezzo che ho scelto per poi, per meri problemi di tempo, si chiama Hey Johnny, ma è sicuramente un gran pezzo. Loro sono Sonic Youth. Hey Johnny, could I be behind you? Hey Johnny, now could I be behind me too? Sam's can't add up, you're not such a mess. You have a pair, just say yes. We'll be right back. E certo che i ragazzi picchiavano forte, erano Sonic Youth dal vivo al Paradiso di Amsterdam il 26 marzo del 1989, la ristampa di quel classico della produzione della band che si chiama Daydream Nation, seconda parte con brani live, quello che ci siamo ascoltati si chiama Hey Johnny. E chi segue le mie trasmissioni sa che ogni tanto mi avventuro nell'ambito jazz, anche se, come del resto anche per la musica rock, non è che ne capisca più di tanto. Qui abbiamo un grande sassofonista che a me piace da morire, vado molto a simpatia, diciamo così, in questa occasione. Si chiama Joshua Redman, figlio di un altro grande del jazz, il sassofonista Dewey Redman. La famiglia viene da Berkeley, California, ovviamente Joshua Redman, come tutti i jazzisti, ha fatto un sacco di album sia in studio che dal vivo, ha fatto un sacco di collaborazioni. Questo doppio CD si chiama Spirit of the Moment Live at the Village Vanguard. Il Village Vanguard è un locale storico di New York City dove lui è stato in una residency, cioè in una serie di concerti ravvicinati, anzi giorno dopo giorno, dal 21 al 26 marzo del 1995. L'album doppio, ripeto, è stato attribuito al Joshua Redman Quartet, perché anche gli altri tre che suonano con lui non sono niente male. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Calm Me Down, Joshua Redman, era il 26 marzo del 1995. Thank you. Thank you very, very much for joining us. Hope you go home feeling good this evening. Yeah. un grande della musica americana, si chiama Dave Matthews, ma anche la sua band è assolutamente grande, un batterista fantastico, l'abbiamo visto un paio di volte qua in Italia, l'ultima volta a Milano, è stato veramente inarrivabile. E loro hanno cominciato come quintetto nel 1991, poi si sono un po' evoluti, hanno aggiunto sax, hanno perso il violinista, nel senso che l'hanno mandato via perché ha avuto dei problemi legali. E hanno fatto tantissime cose dal vivo, come quasi tutte le jam bands che si fregiano di questo nome. L'album che ci siamo ascoltati, si chiama The Best of What's Around Volume 1 ed è un'antologia nella cui prima parte in studio ci sono brani già editi, mentre nella seconda parte ci sono dei brani registrati dal vivo in diverse parti del mondo e che sono all'epoca erano completamente inediti. Quello che ci siamo ascoltati, uno dei classici della band di Dave Matthews, si chiama Ants Marching ed è stato registrato allo State Theatre di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud, vale a dire in Australia. Era il 26 marzo del 2005. Niente, vorrei fare un po' di pubblicità a Dave Matthews che se la merita veramente. A concludere questa Record Today di oggi arriva Joe Bonamassa, grande chitarrista, ve l'abbiamo già ve l'ho già proposto tante volte, anche perché ha fatto un sacco di cose dal vivo, è un po' troppo leccatino a mio avviso, un po' troppo curato, un po' troppo freddo, ecco, diciamo così, però è sicuramente un grandissimo chitarrista, ha iniziato la carriera molto giovane, il suo primo album è del 2000 e ha fatto anche lui un sacco di album dal vivo, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare, che fa parte di un quartetto. Lui nel 2013 era già molto famoso, suonò 4 sere consecutive a Londra in 4 posti diversi che rappresentavano la sua storia musicale in quel di Londra, o per meglio dire la sua storia concertistica in quel di Londra. Iniziò dal Borderline, posto molto molto piccolo, anni dopo suonò allo Shepherd's Bush Empire, posto già più grande, quindi all'Hammersmith Apollo, posto grandissimo e famosissimo, e per finire con la mitica Royal Albert Hall, che sarà protagonista della prossima trasmissione, ma questo è un altro discorso. E il tutto avvenne fra il 26 e il 30 marzo del 2013. Il suo esordio londinese fu appunto al Borderline, locale piccolissimo che ora non esiste più perché lo stabile è stato abbattuto per far posto alla mega stazione metropolitana di Tottenham Court Road. E il brano che ho scelto per voi si chiama Happiness Time, lui invece è Joe Bonamassa, il tutto registrato il 26 marzo del 2013. Era già buona massa a concludere il Record Today di oggi, velocissimamente perché non ho più tempo. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre su 103.1 MHz, Città Fujiko Live Club, la trasmissione che si conclude insieme a Stevie Hackett, il suo nuovo album Live Magic Athletic Boundaries. Il pezzo si chiama Blood on the Rooftop. Ciao a tutti da Nevio.